www.radio3pod.rai.it. Vuoi essere anche tu protagonista in TV? Invia entro l'8 dicembre un tuo filmato sul sito evospot.it. G3 Ferrari selezionerà i filmati più originali per la nuova campagna TV dell'etilometro tascabile Evo. Regolamento su evospot.it. Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Manuela Mandracchia legge Il barone rampante di Italo Calvino. L'ostinazione amorosa di Viola si incontrava con quella di Cosimo e talora si scontrava. Cosimo rifuggiva dagli indugi, dalle mollezze, dalle perversità raffinate. Nulla che non fosse l'amore naturale gli piaceva. Le virtù repubblicane erano nell'aria. Si preparavano epoche severe e licenziose a un tempo. Cosimo, amante insaziabile, era uno stoico, un asceta, un puritano. Sempre in cerca della felicità amorosa, restava pur sempre nemico della voluttà. Giungeva a diffidare del bacio, della carezza, della lusinga verbale, di ogni cosa che offuscasse o pretendesse di sostituirsi alla salute della natura. Era Viola ad avergliene scoperto la pienezza. E con lei mai conobbe la tristezza dopo l'amore, predicata dai teologi. Anzi, su questo argomento scrisse una lettera filosofica a Rousseau, che forse turbato non rispose. Ma Viola era anche donna raffinata, capricciosa, viziata, di sangue e d'animo cattolica. L'amore di Cosimo le colmava i sensi, ma ne lasciava insoddisfatte le fantasie. Da ciò screzzi e ombrosi risentimenti, ma duravano poco, tanto varia era la loro vita e il mondo intorno. Stanchi, cercavano i loro rifugi nascosti sugli alberi dalla chioma più folta, amache che avvolgevano i loro corpi come in una foglia accartocciata, o padiglioni pensili con tendaggi che volavano al vento, o giacigli di piume. In questi apparecchi si esplicava il genio di donna Viola. Dovunque si trovasse, la marchesa aveva il dono di creare attorno a sé agio, lusso e una complicata comodità. Complicata a vedersi, ma che lei otteneva con miracolosa facilità, perché ogni cosa che lei voleva doveva immediatamente vederla compiuta a tutti i costi. Su queste loro alcove aeree si posavano a cantare i pettirossi e di tra le tende entravano farfalle vanesse a coppia, inseguendosi. Nei pomeriggi d'estate, quando il sonno coglieva i due amanti vicini, entrava uno scoiattolo cercando qualcosa da rodere e carezzava i loro visi con la coda piumata o addentava un alluce. Chiusero con più cautela le tende allora, ma una famiglia di ghiri si mise a rodere il soffitto del padiglione e piombò loro addosso. Era il tempo in cui andavano scoprendosi, raccontandosi le loro vite, interrogandosi. E ti sentivi solo? Mi mancavi tu? Ma solo rispetto al resto del mondo? No, perché? Avevo sempre qualcosa da fare con altra gente. Ho colto frutta, ho potato, ho studiato filosofia con l'abate, mi sono battuto coi pirati. Non è così per tutti. Tu solo sei così, perciò ti amo. Ma il barone non aveva ancora ben capito cos'era che Viola accettava di lui e cosa no. Alle volte bastava un non nulla, una parola, un accento di lui a far prorompere l'ira della marchesa. Lui, per esempio, con Gian dei Brughi leggevo romanzi, col cavaliere facevo progetti idraulici e con me? Con te faccio l'amore. Come la potatura, la frutta. Lei taceva immobile. Subito Cosimo s'accorgeva d'aver scatenato la sua ira. Gli occhi le erano improvvisamente diventati di ghiaccio. Perché? Cosa c'è, Viola? Cosa ho detto? Lei era distante come non lo vedesse né sentisse. A 100 miglia da lui, marmorea in viso. Ma no, Viola, cosa c'è? Perché? Senti! Viola s'alzava ed agile, senza bisogno di aiuto, si metteva a scendere dall'albero. Cosimo non aveva ancora capito qual era stato il suo errore. Non era riuscito ancora a pensarci. Forse preferiva non pensarci affatto, non capirlo, per proclamare meglio la sua innocenza. Ma no, non m'avrei capito, Viola, senti. La seguiva fin sul palco più basso. Viola, non te ne andare, non così, Viola. Lei ora parlava, ma al cavallo, che aveva raggiunto e slegava, montava in sella e via. Cosimo cominciava a disperarsi, a saltare da un albero all'altro. No, Viola, dimmi, Viola! Lei era galoppata via, lui per i rami l'inseguiva. Ti supplico, Viola, io ti amo! Ma non la vedeva più. Si buttava su rami incerti, con balzi rischiosi. Viola! Viola! Quando era ormai sicuro d'averla persa e non poteva frenare i singhiozzi, eccola che ripassava al trotto, senza levar lo sguardo. Guarda, guarda, guarda Viola cosa faccio! E prendeva a dar testate contro un tronco a capo nudo, che aveva per la verità durissimo. Lei nemmeno lo guardava, era già lontana. Cosimo aspettava che tornasse, a zig zag tra gli alberi. «Viola, sono disperato!» E si buttava riverso nel vuoto, a testa in giù, tenendosi con le gambe un ramo e tempestandosi di pugni capo e viso. Oppure si metteva a spezzar rami con furia distruttrice. E un olmo frondoso in pochi istanti era ridotto nudo e sguernito, come fosse passata la grandine. Mai però minacciò di uccidersi. Anzi, non minacciò mai nulla. I ricatti del sentimento non erano da lui. Quel che si sentiva di fare lo faceva, e mentre già lo faceva, l'annunciava, non prima. A un certo punto Donna Viola, imprevedibilmente, come era entrata nell'ira, ne usciva. Di tutte le follie di Cosimo che parevano l'avessero sfiorata, una repentinamente l'accendeva di pietà e d'amore. «No, Cosimo, caro, aspettami!» E saltava di sella, e si precipitava ad arrampicarsi per un tronco, e le braccia di lui dall'alto erano pronte a sollevarla. L'amore riprendeva con una furia pari a quella del litigio. Era difatti la stessa cosa, ma Cosimo non ne capiva niente. «Perché mi fai soffrire?» «Perché ti amo.» Ora era lui ad arrabbiarsi. «No, non mi ami. Chi ama vuole la felicità, non il dolore. Chi ama vuole solo l'amore, anche a costo del dolore. Mi fai soffrire apposta allora?» «Sì, per vedere se mi ami.» La filosofia del barone si rifiutava ad andare oltre. «Il dolore è uno stato negativo dell'anima. L'amore è tutto. Il dolore va sempre combattuto. L'amore non si rifiuta a nulla. Certe cose non le ammetterò mai.» «Sì che le ammetti. Perché mi ami e soffri.» Così come le disperazioni, erano clamorose in Cosimo le esplosioni di gioia incontenibile. Talora la sua felicità arrivava a un punto che egli doveva staccarsi dall'amante e andare saltando e gridando e proclamando le meraviglie della sua dama. «Giocchiero, the most wonderful puellam de todo il mundo!» Quelli che stavano seduti sulle panchine d'ombrosa, sfaccendati e vecchi marinai, ormai avevano preso l'abitudine a queste sue rapide apparizioni. Ecco che lo si scorgeva venire a salti per i lecci, declamare «Zudir, Gunaika, vo cercando il mio ben en la isla de Jamaica du soir jusqu'au matin», oppure «Liampre, where the grass grows toda de oro, take me away, che io ci moro», e scompariva. Il suo studio delle lingue classiche e moderne, per quanto poco approfondito, gli permetteva d'abbandonarsi a questa clamorosa predicazione dei suoi sentimenti. E più il suo animo era scosso da un'intensa emozione, più il suo linguaggio si faceva oscuro. Si ricorda una volta che, festeggiandosi il patrono, la gente d'ombrosa era radunata nella piazza e c'erano l'albero della cuccagna, i festoni e lo stendardo. Il barone comparve in cima a un platano. E con uno di quei balzi di cui solo la sua agilità acrobatica era capace, saltò sull'albero della cuccagna, s'arrampicò fino alla cima, gridò «Che viva di escione Venus posterior!» Si lasciò scivolare giù per il palo insaponato fin quasi a terra, s'arrestò, risalì ratto in cima, strappò dal trofeo una rosa e tonda forma di cacio e con un altro balzo dei suoi rivolò sul platano e fuggì, lasciando sbalorditi gli ombrosotti. Nulla quanto queste esuberanze rendevano felice la marchesa. E la muovevano a ricambiargliele in manifestazioni d'amore altrettanto rapinose. Gli ombrosotti, quando la vedevano galoppare a briglia sciolta, il viso quasi immerso nella criniera bianca del cavallo, sapevano che correva a un convegno col barone. Anche nell'andare a cavallo, ella esprimeva una forza amorosa, ma qui Cosimo non poteva più seguirla. E la passione equestre di lei, sebbene egli molto l'ammirasse, però era per lui anche una segreta ragione di gelosia e rancore. Perché vedeva Viola dominare un mondo più vasto del suo e capiva che non avrebbe mai potuto averla solo per sé, chiuderla nei confini del suo regno. La marchesa, da parte sua, forse soffriva di non poter essere insieme amante e amazzone. La prendeva alle volte un indistinto bisogno che l'amore di lei e Cosimo fosse amore a cavallo e correre sugli alberi non le bastava più. Avrebbe voluto correrci al galoppo in sella al suo destriero. In realtà il cavallo, a forza di correre per quel terreno di salite e di rupi, era diventato rampante come un capriolo. E Viola ora lo spingeva di rincorsa contro certi alberi, per esempio vecchi olivi dal tronco sbilenco. Il cavallo arrivava talvolta sino alla prima forcella di rami. Ed ella prese l'abitudine di legarlo non più a terra, ma là, sull'olivo. Smontava e lo lasciava brucare foglie e ramoscelli. Cosicché, quando un pettegolo passando per l'oliveto, elevando occhi curiosi, vide lassù il barone e la marchesa abbracciati e poi andò a raccontarlo e aggiunse «E il cavallo bianco era anche lui in cima a un ramo. Fu preso per fantastico e non creduto da nessuno». Per quella volta ancora il segreto degli amanti fu salvo. Il fatto che ora ho narrato prova che gli ombrosotti, come erano stati prodighi di pettegolezzi sulla precedente vita galante di mio fratello, così ora, di fronte a questa passione che si scatenava, si può dire, sopra le loro teste, mantenevano un rispettoso riserbo, come di fronte a qualcosa più grande di loro. Non che la condotta della Marchesa non fosse riprovata, ma più per i suoi aspetti esteriori, come quel galoppare a rotta di collo. Chissà poi dove andrà, così di furia, si dicevano, pur sapendo bene che andava ai convegni con Cosimo, o quel mobilio che metteva in cima agli alberi. C'era già un'aria di considerare tutto come una moda dei nobili, una di quelle tante stravaganze. Tutti sugli alberi adesso, donne, uomini, non ne avranno più da inventare? Insomma, stavano venendo dei tempi magari più tolleranti, ma più ipocriti. Sui lecci della piazza il barone si faceva vedere ormai a grandi intervalli, ed era segno che lei era partita, perché Viola stava talvolta lontana per dei mesi a curare i suoi beni sparsi in tutta Europa. Ma queste partenze corrispondevano sempre a momenti in cui i loro rapporti avevano subito delle scosse, e la Marchesa si era offesa con Cosimo per il suo non capire quel che lei voleva fargli capire dell'amore. Non che Viola partisse offesa con lui, riuscivano sempre a far la pace prima, ma in lui restava il sospetto che a quel viaggio si fosse decisa per stanchezza di lui, perché lui non riusciva a trattenerla, forse si stava ormai staccando da lui, forse un'occasione del viaggio o una pausa di riflessione l'avrebbero decisa a non tornare. Così mio fratello viveva in ansia. Da una parte cercava di riprendere la sua vita abituale di prima di incontrarla, di rimettersi ad andare a caccia e a pesca e seguire i lavori agricoli, i suoi studi, le gradassate in piazza, come non avesse mai fatto altro. Persisteva in lui il testardo orgoglio giovanile di chi non vuole ammettere di subire influenza altrui. E insieme si compiaceva di quanto quell'amore gli dava, d'alacrità, di fierezza. Ma d'altra parte s'accorgeva che tante cose non gli importavano più, che senza Viola la vita non gli prendeva più sapore, che il suo pensiero correva sempre a lei. Più cercava fuori dal turbine della presenza di Viola di ripadroneggiare le passioni e i piaceri in una saggia economia dell'animo, più sentiva il vuoto da lei lasciato o la febbre d'attenderla. Insomma, il suo innamoramento era proprio come Viola lo voleva, non come lui pretendeva che fosse. Era sempre la donna a trionfare, anche se lontana, e Cosimo, suo malgrado, finiva per goderne. Tutto a un tratto la Marchesa tornava. Sugli alberi ricominciava la stagione degli amori, ma anche quella delle gelosie. Dov'era stata Viola? Cosa aveva fatto? Cosimo era ansioso di saperlo, ma nello stesso tempo aveva paura del modo in cui lei rispondeva alle sue inchieste, tutto per accenni, e ogni accenno trovava modo di insinuare un motivo di sospetto per Cosimo, e lui capiva che faceva per tormentarlo, eppure tutto poteva essere ben vero. E in questo incerto stato d'animo ora mascherava la sua gelosia, ora la lasciava prorompere violenta. E Viola rispondeva in modo sempre diverso e imprevedibile alle sue reazioni. E ora gli sembrava più che mai legata a lui, ora di non riuscire più a riaccenderla. Quale fosse poi veramente la vita della Marchesa nei suoi viaggi, noi a Ombrosa non potevamo sapere, lontani come eravamo dalle capitali e dai loro pettegolezzi. Ma in quel tempo io compii il mio secondo viaggio a Parigi, per certi contratti, una fornitura di limoni, perché ora anche molti nobili si mettevano a commerciare, ed io fra i primi. Una sera, in uno dei più illustri salotti parigini, incontrai donna Viola. Era acconciata con una tal sontuosa pettinatura ed una veste così splendente che se non stentai a riconoscerla, anzi trasalii al primo vederla, fu perché era proprio donna da non poter mai essere confusa con nessuna. Mi salutò con indifferenza, ma presto trovò il modo d'appartarsi con me e di chiedermi, senza attendere risposta tra una domanda e l'altra: «Avete nuove di vostro fratello? Sarete presto di ritorno a Ombrosa? Tenete, dategli questo, il mio ricordo». E trattosi dal seno un fazzoletto di seta, me lo cacciò in mano. Poi si lasciò subito raggiungere dalla corte d'ammiratori che si portava dietro. «Voi conoscete la Marchesa?» mi chiese piano un amico parigino. «Solo di sfuggita», risposi, ed era vero. Nei suoi soggiorni a Ombrosa, donna Viola, contagiata dalla selvatichezza di Cosimo, non si curava di frequentare la nobiltà del vicinato. «Di rado tanta bellezza si è accompagnata a tanta irrequietudine», disse il mio amico. «I pettegoli vogliono che a Parigi la passi da un amante all'altro, in una giostra così continua da non permettere a nessuno di dir la sua e dirsi privilegiato. Ma ogni tanto sparisce per mesi e mesi e dicono si ritiri in un convento a macerarsi nelle penitenze». Io trattenni a stento le risa vedendo come i soggiorni della Marchesa sugli alberi d'Ombrosa erano creduti dai parigini periodi di penitenza. Ma nello stesso tempo quei pettegolezzi mi turbarono, facendomi prevedere tempi di tristezza per mio fratello. Per prevenirlo da brutte sorprese volli metterlo sull'avviso e appena tornato a Ombrosa andai a cercarlo. Mi domandò a lungo del viaggio, delle novità di Francia, ma non riuscì a dargli nessuna notizia della politica e della letteratura di cui non fosse già informato. In ultimo trasse di tasca il fazzoletto di Donna Viola. A Parigi, in un salotto, ho incontrato una dama che ti conosce e mi ha dato questo per te, col suo saluto. Calò rapido il cestino appeso allo spago, tirò su il fazzoletto di seta e lo portò al viso come ad aspirarne il profumo. Ah, l'hai vista? E com'era? Dimmi, com'era? Molto bella e brillante, risposi lentamente. Ma dicono che questo profumo venga aspirato da molte narici. Si cacciò il fazzoletto in seno come temesse che gli venisse strappato. Mi si rivolse rosso in viso. E non avevi una spada per ricacciare in gola queste menzogne a chi te le diceva? Dovetti confessare che non m'era neanche passato per la mente. Restò un poco in silenzio, poi scrollò le spalle. Tutte menzogne. Io solo so che è solo mia. E scappò per i rami senza salutarmi. Riconobbi la sua maniera solita di rifiutare ogni cosa che lo costringesse a uscire dal suo mondo. Da allora non lo si vide che triste ed impaziente, saltellare in qua e in là, senza far nulla. Se ogni tanto lo sentivo fischiare in gara con i merli, il suo zirlo era sempre più nervoso e cupo. La marchesa arrivò. Come sempre, la gelosia di lui le fece piacere. Un po' la incitò, un po' la volse in gioco. Così tornarono le belle giornate d'amore e mio fratello era felice. Ma la marchesa ormai non tralasciava occasione per accusare Cosimo d'avere dell'amore un'idea angusta. «Cosa vuoi dire, che sono geloso?» «Fai bene essere geloso, ma tu pretendi di sottomettere la gelosia alla ragione.» «Certo, così la rendo più efficace.» «Tu ragioni troppo, perché mai l'amore va ragionato?» «Per amarti di più, ogni cosa farla ragionando aumenta il suo potere.» «Vivi sugli alberi e hai la mentalità d'un notaio con la gotta.» Le imprese più ardite vanno vissute con l'animo più semplice. Continuava a sputar sentenze, fino a che lei non gli sfuggiva. Allora lui a inseguirla, a disperarsi, a strapparsi i capelli. Manuela Mandracchia ha letto Il barone rampante di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Carlo Cursi. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.